Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21:30, ma partiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Questo era il brano di apertura per questo programma, che è programma radiofonico ovviamente, che è Zardins Magnetics, che viene condotto ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di radio Onde Furlane, grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi 16 gennaio 2025, andremo avanti fino alle ore 21:30. E ora invece passiamo all'ascolto di questa band francese dell'area di Parigi, band che esiste dagli anni 90, loro sono la Fraction e noi ci ascoltiamo alcuni brani dal loro album datato 1998. We'll be right back. Sono seduto in mezzo a questa gente. Tutti hanno la testa abbassata, a testimoniare la stessa sottomissione. Un marchingegno guardano, illuminato. Nessuno si guarda in viso, sono tutti bianchi. Non hanno problemi loro con chi da un momento all'altro salirà e li guarderà e solo per il colore della pelle selezionerà. C'è un ragazzo poco più avanti di me, lui non è mogio come gli altri, lui come me ha la testa che guarda avanti, è in apprensione come me, ma io sono bianco, il controllo di razza io lo schivo. Lui è nero, giovane, un bel ragazzo, trasmette energia, ma è smarrito, non conosce quella valle, neanche il fiume. È evidente che si sente solo. Una signora, buon'anima, gli dice: guarda che più avanti c'è la polizia. Pochi si guardano, nessuno parla, nessuno gli dice: tranquillo, ci siamo noi. No, lui è solo, io stringo i denti, vorrei dirgli: scendi con me, ti porto io tra le montagne. Dentro di me sono agitato come lui, ma per altri motivi. Perché non posso alzarmi e dire la mia, non posso scoprirmi, ed i miei sentimenti sono tutti arrabbiati per un senso di ingiustizia, perché questa cosa mi mangia dentro. Lo guardo ancora un attimo, è tutto agitato dentro, fuori no. Avrà le mani sudate, lo sento. Ed io, con il cuore tutto arrabbiato, scendo. Sì, bentornati bentornati a Zernis Magnetics. Allora, abbiamo iniziato con questa lettura di questo testo che si intitola Con il cuore tutto arrabbiato, dai giorni e le notti della latitanza, una poesia che compare sull'autoproduzione Haiku senza Haiku, questo così opera poetica, diciamo, che è autoprodotta, che è stata ispirata dal compagno Juan, detenuto nel carcere di Terni. E abbiamo iniziato con questa poesia perché appunto è un omaggio, insomma, almeno io la vedo così, un omaggio e una così è un moto di vicinanza, di vicinanza, di solidarietà, ma anche di proprio vicinanza esistenziale con tutte quelle persone, quei giovani, quei ragazzi, quelle ragazze che vengono perseguitati, assediati, guardati con sospetto, molestati continuamente dalla polizia, appunto perché non sono bianchi. E si assiste nell'ultimo periodo a un incremento di questo atteggiamento delle forze della repressione. Continuamente si vedono, insomma, ragazzi fermati anche senza nessun motivo, anche qua in provincia, insomma, anche qua nella città di Udine. E questo sentimento di insicurezza che le persone razzializzate provano, questo senso di precarietà, di ingiustizia, ma anche di essere in balia, diciamo, dell'arbitrarietà e della violenza delle forze della repressione è palpabile. E questo discorso, così, per introdurre Così, qualche parola su Rami, il ragazzo ammazzato dai carabinieri a Milano qualche tempo fa, e sulle manifestazioni che ci sono state pochi giorni fa a Roma e a Bologna, che sono appunto hanno dato anche vita a a delle giuste manifestazioni di rabbia. Non sto a leggervi, ci sono comunque dei contributi interessanti. Ad esempio, c'è un testo che è comparso sul blog Pungolo Rosso, che si intitola Rami e i suoi fratelli, un omicidio di Stato e il DDL 1660, che mette in collegamento anche tutta la campagna mediatica che c'è stata dopo le manifestazioni, volta appunto a criminalizzare le manifestazioni stesse, e con il chiaro intento, insomma, di rilanciare il discorso dell'approvazione al Senato del decreto sicurezza e anche di questo scudo penale, no, per gli sbirri. Cioè è stato proposto anche questa cosa della non perseguibilità delle forze dell'ordine quando sono in servizio, per qualsiasi tipo di azione esse compiano. E poi dopo, Nordio ha fatto marcia indietro. Comunque, diciamo che il clima di perfezionamento dello Stato di Polizia è sempre più acceso, ma contemporaneamente ci sono anche dei segni di rivolta. E dei segni di rivolta importante, anche se è una rivolta disorganizzata, magari si può dire, in certe situazioni, o non politicamente troppo precisa, ma sicuramente c'è una situazione di esasperazione e anche di rivolta intenzionale, insomma, di volontà di esprimere la propria rabbia, perché questo non è una cosa assolutamente importante, insomma, che si manifesti. E niente, questo intanto per iniziare. Continuiamo con gli interventi. Allora, ieri, che era il 15 gennaio, c'è stata la udienza preliminare dell'operazione Sibilla, che è un'operazione che nel novembre del 2021 così ha portato una, appunto, un'operazione repressiva principalmente contro il giornale anarchico Vetriolo. La procura di Perugia chiedeva il rinvio a giudizio per 12 anarchici anarchiche imputati per 19 capi d'accusa, quasi tutti aggravati dalla finalità di terrorismo. Inoltre l'operazione Sibilla è stata determinante nel trasferimento in 41 bis di Alfredo Cospito. E appunto, quindi ieri c'era questa udienza preliminare. Allora, questa udienza preliminare si è conclusa con la dichiarazione di non luogo a procedere per tutti gli imputati in merito a tutte le accuse. Ci scrivono i compagni a Perugia, sì, ci scrivono i compagni di Perugia: durante l'udienza sono state lette dichiarazioni spontanee da parte di Alfredo e di altri 4 compagni e una compagna imputati. Allora, quindi, dopo questo non luogo a procedere, gridiamo ancora più forte: fuori Alfredo dal 41 bis, giù le mani dalla stampa anarchica. E appunto, sensazione, ci scrivono i compagni, di chi sta redigendo queste brevi note, è che lo Stato abbia avuto in qualche modo, tra virgolette, paura di un processo durante il quale, come ha dimostrato la giornata odierna, sarebbe stato possibile rompere l'isolamento del 41 bis dialogando, per quanto a distanza, con Alfredo. D'altro canto, questa decisione, e cioè appunto della dichiarazione di non luogo a procedere, oltre a essere un importante precedente nei riguardi di altri processi, a partire da quello di Massa contro il quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivny, fa certamente venire meno un tassello fondamentale per giustificare l'internamento del nostro compagno in 41 bis. È dunque fondamentale riaprire con forza la mobilitazione per tirare fuori il nostro compagno da questo infame regime carcerario di tortura. Da oggi questa infamità è risultato ancora più ingiustificabile anche nell'odioso terreno della giurisprudenza borghese. Significativo inoltre che, nonostante le minacce di foglio di via notificate dalla questura perugina dopo la precedente presenza solidale del 10 ottobre, il numero di compagni e compagne all'esterno del tribunale è stato più consistente e determinato. E quindi ribadiamo: fuori Alfredo dal 41 bis, chiudere il 41 bis, giù le mani dalla stampa anarchica. Cause E intanto stiamo ascoltando in questa band statunitense dal loro album datato 2005. Loro sono le Arum Scarum, band di Portland dell'Oregon. Ciao a tutte e tutti, anche da parte mia, sono le 20:29 minuti, continuiamo con gli aggiornamenti, diamo anche una notizia che è datata 9 gennaio, quindi è arrivata un po' tardi per l'altra puntata, la diamo oggi, che è, ricordiamo, 16 giovedì sera, come sempre, qui in diretta. Una diciamo, si chiama agenzia, no? ANSA, Torino 9 gennaio. Il 78enne Pasquale Valitutti, figura carismatica del movimento anarchico in Italia, è indagato a Torino per istigazione a delinquere aggravata dalle finalità terroristica. Lo si ricava da un'ordinanza del Tribunale Riesame Subalpino che ha accolto l'impostazione dei pubblici ministeri. Il nome di Valitutti compare in un procedimento con decine di indagati per i disordini nel centro storico di Torino avvenuti il 4 marzo 23 durante un corteo convocato nell'ambito della mobilitazione della Galassia Antagonista a favore di Alfredo Cospito, l'anarchico che in quel periodo stava sostenendo uno sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis cui è sottoposto. A Valitutti, che da tempo è costretto su una sedia a rotelle, non è contestata la partecipazione diretta ai tumulti. Sono al vaglio invece le parole pronunciate durante alcune interviste rese a organi di informazioni nelle settimane precedenti. I giudici, accogliendo un ricorso della procura, hanno stabilito che alla luce del contesto storico e politico del momento, la chiarezza letterale delle sue esternazioni dell'auspicare reazioni violente contro le istituzioni e contro una parte della popolazione ritenuta complice del destino di Cospito è talmente chiara che non lascia margini di dubbio. Queste ultime frasi erano virgolettate. Quindi allora un compagno storico del movimento, diciamo, anarchico, viene indagato per istigazione a delinquere e indagato per il momento, non è ancora, comunque al di là di quello, che la cosa significativa è cioè che questi esponenti qui che sono funzionari dello Stato, i magistrati, espongono le loro prospettive sul momento No, sul contesto storico e politico, quindi ancora una volta loro funzionano come un ufficio stampa tipo di un movimento che potrebbe essere, non so, adesso dico un qualunque, insomma, dei partiti superstiti di questo paese e di questo, sì, di questa stivalaccio. E cioè, secondo loro, quindi in base a quel contesto storico, vanno colpite le dichiarazioni per persone che si esprimono senza giri di parole contro appunto loro stessi che stanno prendendo questa posizione, perché una popolazione ritenuta complice del destino di Cospito. Una parte che sta, diciamo, colpendo in maniera inequivocabile alcuni fra quelli che appunto attaccano senza, insomma, giri di parole i responsabili di questo contesto, di cui loro farneticano. Non so se è chiaro, ecco, quello che ho detto. Comunque, altro aggiornamento che voglio dare veloce, nel senso veloce, senza dilungarmi tanto, è che invece a carattere locale una questione che riguarda appunto dei solidali che si sono mobilitati contro un progetto che è previsto, insomma, per una ridefinizione in chiave turistica della città di Trieste, che è questo progetto di Ovovia, insomma, eccetera. Insomma, non mi dilungo su questa questione, però è uscito appunto, vi do lettura anche qua delle, insomma, delle cose principali che hanno insomma pubblicato il comitato, no, Ovovia. A fine agosto 23 partivano nella zona di strada del Friuli e quasi di nascosto i carotaggi propedeutici alla costruzione dell'Ovovia, ovvero i primi passi per la costruzione di enormi piloni a pochi metri dalle case e in alcuni casi l'interno dei giardini. La mattina sul posto arrivava la trivella, siamo a fine agosto, 23, arrivava la trivella sotto un vero e proprio diluvio estivo, così è partita da alcuni residenti una chiamata di sostegno. Nonostante la fortissima pioggia, svariate persone erano giunte sul posto, così come le forze dell'ordine. Quel giorno e successivi l'opposizione alla costruzione dell'Ovovia aveva trovato espressione hanno infastidito, ecco, questi lavori. Mesi dopo, cioè adesso, arriva la sorpresa: una decina di persone presenti in strada del Friuli in quelle giornate sono state denunciate. L'accusa è di violenza privata, un reato con la reclusione fino a 4 anni, si suppone per aver impedito agli operai di portare avanti i carottaggi, nonostante la massiccia presenza di forze dell'ordine. C'è stata proprio questa mattina, penso che si riferisca o a oggi giovedì o a ieri, c'è stata la prima udienza del processo contro queste persone. A loro va la nostra solidarietà, la solidarietà del comitato Novo Via. E niente, si conclude sì, questa è una, appunto, un'opera, adesso dico veramente in schema, telegrafico, che non aveva trovato più finanziamenti, diciamo, a livello europeo, e pur di andare avanti su questa inutile opera, le forze, diciamo, di governo hanno spostato un finanziamento che era su Padova e hanno trovato altri milioni di euro, e quindi andranno avanti con questi lavori, e quindi penso che la lotta debba continuare anche da parte nostra. Qui Zardins Magnetics va la solidarietà alle persone denunciate e che sono a giudizio. Sì, torniamo in voce. Allora, chi ha ricevuto la promo di Zardins di oggi giovedì 16 gennaio e ha visto che c'è un punto dedicato a questa Aquilina, una guaritrice carismatica, usiamo queste parole, contro stregona, diciamo, che appunto era, abitava, insomma, viveva in Borgo Grazzano, qui, che tra l'altro è un borgo che qui è vicino alla radio, molto vicino alla radio, insomma, qua a Udine, e che appunto è stata, ha subito, insomma, diversi processi da parte del Tribunale dell'Inquisizione. E, allora, così abbiamo pensato di dedicare così un po' di tempo a questa vicenda, non per fare una, come dire, un intervento storico, filologico, boh, ma perché è significativa, cioè la personalità di questa donna Aquilina è, come emerge, insomma, dalle carte, è così, è interessante, significativa, e anche la vicenda stessa, insomma, è diciamo una pagina poi della città di Udine, ma di questa zona anche appunto specifica, Piazza Leccella, insomma, e questi dintorni, che ha così, insomma, che è bella da ricordare. Allora, intanto il Friuli, nel Friuli c'è, l'ha studiato Carlo Ginzburg, c'è questa, ci sono i benandanti erano questi, diciamo appunto contro stregoni, cioè figure nati con la camicia, cioè col sacco amniotico, che praticamente difendevano i raccolti dalle fatture, insomma dal malocchio, diciamo, delle streghe, degli stregoni, e quindi in questa tradizione, che è una tradizione sciamanica, i benandanti appunto in momenti significativi, solstizio eccetera dell'anno, quattro volte l'anno, andavano in sonno, durante il sonno, a combattere contro appunto le streghe e gli stregoni. Allora, le streghe e gli stregoni combattevano con il sorgo, brandendo dei fasci di sorgo, invece i benandanti combattevano con il finocchio, e uscivano appunto dalla loro dal corpo durante la notte in forma di animali, potevano essere schirazzi, cioè scoiattoli, animali di questo genere, appunto andavano a fare questi combattimenti. Se avevano la meglio il raccolto era buono, se avevano la peggio invece il raccolto poteva andare male, e poi rientravano nel loro corpo, diciamo, finito il combattimento, e non potevano essere, mentre la persona era dormiva, non poteva essere risvegliata, cioè scossa, insomma, mentre l'anima era via, diciamo, mentre lo spirito era via, perché altrimenti pena la morte del soggetto. Allora, questa Carlo Ginzburg studia questi benandanti, i quali non avevano solo però questa funzione, avevano principalmente questa funzione di protezione delle messi, però avevano anche funzionavano anche come guaritori, e quindi era una forma anche, diciamo, di medicina popolare tradizionale, appunto esercitata da questi, io li chiamo carismatici, perché queste persone, insomma, con una particolare predisposizione al contatto con le forze, diciamo. E appunto Donna Aquilina, questa importante figura di Borgo Grazzano, compare proprio, viene citata come benandante, e anche se insomma lei non si definisce mai benandante, sa che cosa sono i benandanti, sa che sono nati con la camicia, cioè appunto col sacco amniotico, lei no, quindi non ha questo segno specifico così di identità, diciamo, e li conosce i benandanti, conosce anche dei benandanti, però non si definisce tale. E Ginzburg appunto dice che questa tradizione dei benandanti è una tradizione sciamanica che viene dal mondo slavo. E poi ulteriori studi prendono spunto anche appunto da questa vicenda della donna aquilina, dicono che c'è un filone, diciamo, di guaritori e di controstregoneria che viene anche non solo da Oriente ma anche da Occidente, e specificamente per quanto riguarda l'Italia dal Veneto. Difatti questa, allora, intanto la, poi leggerò alcuni pezzetti, perché le parole proprio della, di questa aquilina, insomma le parole che lei pronuncia quando viene inquisita sulla sua attività. Lei comunque era originaria di Aquilina Rossetto, originaria di Padova, allevata però a Vicenza. La mamma era padovana, il papà era vicentino, e il papà faceva il pinzonchero, cioè praticamente era una figura laica all'interno di un ordine monastico, dei Frati della Vigna, quindi che aveva fatto anche lui voto di povertà, insomma, era devoto, eccetera, serviva questa congregazione di Frati della Vigna. E Aquilina viene educata però dallo zio, cioè da un fratello del padre, che è un maestro di scuola e che anche lui è un guaritore. E appunto inizia Aquilina questa arte quando lei ha 7 anni. E le insegna questi da apprehentar, come dice lei, e lei prosegue, insomma, con questa sua attività. E viene via, arriva a Udine dopo perché lei era bigatte, cioè sapeva lavorare la seta, e appunto a Udine è proprio in questa zona, insomma, di Borgo Grazzano c'erano tante donne che erano specializzate in quest'arte, insomma, di tessere la seta. E lei, insomma, ha un marito e una figliola, poi però muoiono entrambi, e lei si risposa con un sarto di un altro paese, per chi non è friulano, insomma, della bassa Friulana, cioè la Tisana, e che però appunto fa il sarto proprio in Borgo Grazzano, perché Borgo Grazzano era un luogo molto vivace anche dal punto di vista dei commerci, delle attività artigianali. C'erano tantissimi artigiani, tantissime attività. E proprio questa classe, diciamo, di cittadini artigiani è quella che manda a processo Aquilina perché per invidia, in quanto per la sua arte di guaritrice lei aveva un sacco di clienti, diciamo, cioè di persone che arrivavano da tutto il Friuli, dai monti, dalla campagna, eccetera, proprio per chiedere il suo aiuto. E quindi scattano delle invidie, poi appunto la chiamavano strega, insomma, e quindi lei viene infamata da persone che appunto vicini di casa, insomma, e poi vediamo, insomma, e appunto inizia questa sua vicenda giudiziaria con il Tribunale dell'Inquisizione. Sì, continuiamo con la storia di Aquilina. Allora, Aquilina di Grazzano, la prima denuncia risale al 1574. Ci sono queste due donne, Maria e Sabata, suocera Maria, nuora Sabata, che erano venute a Udine da Aquilina per cercare rimedio alla grave infermità del marito e suocero. Ed erano appunto state inviate da Aquilina da un'altra donna, e Aquilina le aveva ricevute e ascoltate, aveva diagnosticato la fattura, si era fatta consegnare una cintura del malato segnandola sopra un tavolo dopo averle fatto due nodi, l'aveva riconsegnata alle donne raccomandando loro di porla così ingroppata sul cuscino e sotto la testa del malato, insegnando loro anche il rituale da osservare sullo scioglimento dei nodi. Quindi lei utilizza non tanto le erbe, poi dopo in alcune deposizioni nominerà alcune erbe, la rutta ad esempio, ma come coadiuvanti, diciamo, però essenzialmente appunto lavora, opera con i legami, no? Cioè lei vede, diciamo, capisce la fattura, più che altro capisce chi può aver fatturato, le persone appunto che stanno male, che sono in crisi, e utilizza questo sistema dei, si fa dare appunto delle cinture o sciarpe, qualcosa comunque che si può legare, e libera dai legamenti malefici, diciamo negativi, attraverso appunto lavorando appunto questi i legami stessi con questi nodi, con delle misurazioni, boom. E poi c'è tutto un, quando spiega insomma un po' la sua, il suo sapere, la sua sapienza, dice, spiega anche questa cosa, che i nodi devono essere due, non tre, perché c'è un sorgere, un tramontare, insomma, perché due sono le fasi principali, diciamo, naturali, cosmiche, ecco, principali. E allora, quando lei racconta dei suoi, di quello che fa, dice: ho tre tipi di prehenti. Il primo per latte, per la perdita di latte delle puerpere; il secondo per le infermità degli uomini e donne; il terzo per gli animali. E appunto, come dicevo prima, c'è un grande afflusso di persone a casa sua, 5-6 clienti al giorno, dalla Carnia, dal Cividalese, dal Tarcentino e dal Goriziano anche. E tramite il marito, poi, questo Giovanni, appunto questo sarto Giovanni, ha forti legami anche con la gente di Latisana. E tra l'altro anche in quella zona c'erano insomma molte guaritrici, c'è una rete, diciamo, di guaritori e di guaritrici. E tutte queste cose che vi sto dicendo sono tratte da un libro, proprio un libro che è stato pubblicato dalla parrocchia di San Giorgio Maggiore a Udine, che è appunto la parrocchia che di questo territorio specifico di Borgo Grazzano, che parla, ed è un articolo di Giampaolo Gri, insomma, che racconta un po' tutto, ricostruisce un po' tutta la storia di questa Aquilina. Allora, una roba importante, lei, dicevo, nel 1574 c'è questa prima denuncia, e per un certo tempo, diciamo, queste denunce rimangono a un livello, non c'è il Tribunale dell'Inquisizione che se ne occupa, ma rimangono a livello di clero locale, e per diciamo all'inizio appunto queste pratiche di religiosità popolare, diciamo, e di appunto di cultura medica anche popolare, e sono contigue con la chiesa ufficiale, diciamo, cioè non c'è una persecuzione aperta. E difatti in un primo momento Aquilina viene così ripresa, rimproverata, rimane a parlare con il vescovo, però due ore lui le dice di non agire più, di non presentar più, e diciamo in qualche maniera finisce lì. Però invece, andando avanti, queste pratiche vengono sempre più appunto lette come pratiche diaboliche, e quindi da trattare per opera del Tribunale dell'Inquisizione, quindi le cose si fanno sempre più pesanti, ecco, e la persecuzione verso queste persone che esercitano queste arti diventa sempre più serrata. Katholische Jugendgemeinde Seewe, recht herzlich Dank an Deborah Kulfer und wünsche euch viel Spass mit den besinnlichen Liedern von Bellicosi aus Turin. Danke vielmals. Ricordo adesso, in questa pausa, che stiamo ascoltando questa band di Torino. Loro sono i Bellicosi e questo è un loro album datato 2001 che si chiamava Torino Rock and Roll Stars, che tra l'altro così è recentemente ripubblicato solamente su vinile. Allora, l'inquisitore si chiamava Fra Felice. Nell'interrogare Aquilina, Fra Felice non si lascia sfuggire l'aggancio. Conosce una qualche donna di Pasian, Pasian di Prato, che è un paese qua vicino a Udine, e appunto perché c'era questa testimonianza di una donna di Pasian che raccontava che vedeva i morti. E là Aquilina rispondit: fui due volte una donna di quella villa da me, che se la vedessi non la conoscerei, e fu piangendo da me a dirmi che lei vedeva i morti e che non li vorrebbe veder. Io la pregai che la facesse fantasia, se la vedesse una mia figliola che era morta e che era vestita al tale tal modo. Questa domanda che l'inquisitore fa ad Aquilina è direttamente collegata per sondare la sua conoscenza dei benandanti. E infatti lui le dice: se lei conosce i benandanti. E lei risponde: signor no, se non che ho inteso a dir che quelli che nascono vestiti sono benandanti. E ecco, una cosa di Aquilina è che anche quando si difende non fa i nomi, cioè dice: sono state queste donne, alcune donne mi hanno detto, parla sempre delle donne, infatti anche diciamo si lamenta del fatto che chi la infama sono tutti maschi, e invece lei ha una linea, diciamo, di confidenza, di solidarietà con le donne, però non fa nomi. Si dimentica, dice sempre: ma non lo so, era una donna che passava, una donna in strada, ma non si difende, diciamo, coinvolgendo in maniera precisa altre donne, altre persone. E vediamo cosa racconta dei suoi, di questa sua diciamo potere della parola, del gesto, guaritore. Cosa dice per il latte delle donne? Come viene da me qualche donna per tale effetto, col dir che gli manca il latte, io gli addimando il nome, quale, avendomelo detto, io comincio a dire così: essa donna presente, in nome di Dio e di Madonna Santa Caterina, se per sorte è questo nome, come Madonna San Anna fece Madonna Santa Maria, e Madonna Santa Maria fece Nostro Signore Gesù Cristo, e Madonna Santa Maria Isabetta fece Messer San Zuane, come che quelle tre donne li fioli i suoi nodri, così il latte torni a te. Va con Dio mo. Di sette paternostri e sette ave marie ad onor di Dio e di Santissima Trinità, che ghedia della gran sua sanità. E per gli animali, io prendo una zuffa di sale e dico sopra quel sale, al nome di Dio, de Madonna Santa Maria e del Beato Messer San Iosefo, ti bestia bovina, come tu stessi di mangiare, al Signore Dio tu stessi a scaldare, così ti bestia bovina non possi mai aver male, il patron tuo si possi allegrare e la carne tua si possi moltiplicare. Va con Dio mo, daghe delle erbe che sono raccolte il giorno di San Juan de Zugno, et missia questo sale con dell'altro sale et con quelle erbe, et fregali le zenocce et la lingua et il gargato. E poi vabbè, e poi sì, invece per i mali appunto degli umani, delle donne e degli uomini, quando vanno i contadini a casa sua gli portano un oligaccio o una centura di colui che ha malato, e lei gli addimanda quanto tempo è che ha malato e come gli ha risposto, piglia quella centura e comincia a mesurar con le quarte, con i palmi, e da poi, sgurtando quella centura con tre groppi, ritorna a mesurar, come teva che si dicesse alcuni paternostri e ave marie la sera e la mattina, e che non sgroppino se non a un tempo determinato quei groppi, et che così sarà liberato l'infermo di quella infermità. Questa però era una testimonianza di una mamola, come venivano dette le serve, ma non erano nemmeno serve vere e proprie, erano persone quasi adottate, diciamo, che andavano a servizio in queste case, perché appunto Aquilina non era povera, ma questa mamola Josefa che dovrebbe ereditare, diciamo, l'arte della Aquilina, ma che in realtà non ha il potere, insomma, che ha Aquilina. E, dicevo prima, appunto, lei per difendersi, cioè, intanto dice, spiega bene quello che fa, quindi è fiera, diciamo, di quello che fa. Per difendersi non fa nomi e poi ha un modo singolare di fugge tutte le volte che viene convocata, scappa la tisana, si dà malata, scappa in casa di altri, finché insomma arriva questo inquisitore con i militari, insomma in pompa magna, e quindi lì praticamente la blindano e la chiudono in casa, insomma lei è in qualche maniera, sì, le tocca, diciamo, presentarsi, però cerca sempre di svignarsela in tutti i modi, e comunque nel momento in cui la interrogano cambia nel frattempo per fortuna sua l'inquisitore, quando deve insomma parlare, dire quello che fa e tutto. Scrive una supplica, però in questa supplica, oltre a dire che non ha fatto niente contro Dio, eccetera eccetera, che non niente contro la Chiesa Santa Cattolica e la Chiesa Romana, eccetera, che non ha fatto incantesimi, ha fatto certi esorcismi, ma non incantesimi, magie nere, insomma, queste cose qua. E che lei ha continuato a presentar nonostante i divieti, perché appunto la gente continuamente andava a chiederle, lei non poteva non fare il bene in pratica, però è una roba particolare, perché lei praticamente dice sì, ma io non mi sono presentata perché l'atteggiamento dell'inquisitore non era aggressivo, anzi lui è venuto a chiedermi di presentar, cioè è venuto a chiedermi, stava male, era malato ed è venuto a chiedermi di guarirlo, quindi praticamente tira dentro, si utilizza anche questo espediente, diciamo, per ribaltare l'accusa. Infatti dice dunque: e tanto più ho creduto di poterlo fare, poiché già alcuni anni nel medesimo padre maestro Felice di Montefalco, inquisitore passato, io usai queste mie orazioni e segnazioni, il che quando così a loro possa essere necessario, io prometto per testimoni degni di fede. Quindi dice insomma agli stessi inquisitori: se state male venite da me che vi curo. Fermezza delle vostre decisioni, digerendo nel silenzio l'amarezza, cercando forse da improbabili proverbi, statene pur certi, non cadrò. Senz'altro preferisco il tu papà, parole a gesti inutili e inconsueti. Gambocciare esistenziale della mia generazione, destinata a consumare libertà, davanti a muscoli, a individui cibernetici, statene pur certi, non cadrò. Senz'altro preferisco il tu papà, parole a gesti utili e consueti. Gesti nudi e consueti, perché Bene, concludiamo questa, così, questa carrellata, diciamo, su questa storia di appunto contro stregoneria e inquisizione in Borgo Grazzano, qua a Udine. Appunto, siamo tra il 1574 e la fine del 1500, e in definitiva Donna Aquilina continua a esercitare la sua arte tutto il tempo, non si ferma. E niente, non si ferma, e questa, così, ci sono ancora in Friuli, non credo, non solo in Friuli, ma l'esperienza nostra è qua, e ci sono ancora dei fili, come dire, che continuano. Nel senso che esistono ancora persone, soprattutto donne, che hanno questa, che sono guaritrici, diciamo, che sono guaritrici e che insomma, dalle quali le persone vanno soprattutto per quando ci sono slogature o problemi di questo genere, agli arti e cose di questo genere. E tuttora, insomma, ci sono, appunto, sempre di meno, perché, cioè, io mi ricordo quando ero piccola, io, insomma, quindi un bel po' di decenni fa, ce n'erano di più, c'erano queste donne molto anziane, soprattutto nei paesi, che facevano queste cose, che mettevano a posto, aggiustavano le ossa. Adesso un po' di meno, ma c'è ancora qualcuna. E ecco, un'altra cosa che non ho detto, per questo tipo di pratiche benefiche, queste persone non possono essere pagate, perché diciamo, come del resto anche nella tradizione sciamanica di cui si parlava prima, anche per, vale anche per i benandanti, non c'è un prezzo, uno scambio stabilito, diciamo, in denaro, no? Ci possono essere solo delle offerte, o in denaro o in beni, diciamo, ma devono essere delle offerte, non ci può essere un tariffario, ecco, e quindi un pagamento vero e proprio, ci può essere solamente un'offerta, e perché un pagamento invaliderebbe, un pagamento preciso, diciamo, invaliderebbe appunto l'azione della guaritrice. E questa cosa vale tuttora, anche in questo mondo totalmente monetizzato, però se si va da, se si ha la fortuna, insomma, di conoscere qualche aggiusta ossi, no, le aggiusta ossi non si fanno pagare. E vabbè, magari questo, non so, è una roba, un amarcord magari così troppo personale, comunque. E niente, abbiamo voluto, insomma, ricordare questa storia, micro storia, ma significativa, di questa del quartiere dove, vicino a dove ci troviamo qui anche con la radio. We'll be right back. Bene, abbiamo ascoltato questa band californiana che tra l'altro abbiamo anche pure ascoltata, abbiamo ascoltato questa band femminile anche durante gli interventi. Loro erano le Hall, band californiana. Questo era il loro album datato 1991, Pretty on the Hide, scusate. E ora invece andiamo all'ascolto di questa band, altra band invece friulana che non esiste più, ha fatto uscire un 7 pollici, forse due più, comunque quello che ora andiamo ad ascoltare, un CD promozionale, proprio si chiama Promo 2015, era una band, come ho detto, friulana, era un trio, Pordenone, Udine, Ferrara, e loro si chiamavano A New Scar. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola. Bene, questi due brani che abbiamo ascoltato fanno parte di questo CD promozionale che era uscito nel 2015 e di questa band, di questo trio che diciamo l'area base era Friuli, ma in realtà c'era un componente di Ferrara, uno di Pordenone e uno di Udine, e come appunto detto CD promozionale, loro erano gli e New Scar, promo 2015, tant'è che sul retro della copertina di questo mini CD c'è anche appunto cercasi coproduttori perché loro successivamente hanno fatto uscire dei 7 pollici in vinile. Comunque siamo anche, anzi tra l'altro sono 3 i brani, il terzo l'ascolteremo tra poco alla fine del programma, che ricordo il programma che state ascoltando è Zardins Magnetics, in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, oggi 16 gennaio 2015, programma che inizia alle ore 20 e termina alle 21.30, programma comunque che viene gestito dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e come ogni volta che si conclude il programma leggiamo i nostri contatti, che se volete scriverci per qualsiasi vostra opinione eccetera eccetera eccetera o consiglio, vabbè, insomma le solite cose che tanto non farete mai, e la mail per scriverci è liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che potete riascoltare questo programma, ma anche quello delle volte scorse, andando alla ricerca nell'internet al blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, questo è tutto. Vi saluto e ripresenteremo in onda il prossimo giovedì, e salutiamo anche chi ci ascolterà domani venerdì 17 gennaio dalle ore 17 sulla web radio Radiazione. Ciao a tutti e vi lascio con questo ultimo brano degli New Scar. Ciao a tutti.